dit Christine. Kokende yo kende mobembo, ah mama. Batikala wande kosekenga na sima balobi yo kimangai. Nama wanangai Christine, nasali kokanisa yo poye ba. Nakokondo se pamba di Christine, nasali moyembi. Nama wanangai Christine, nasali kokanisa yo poye ba. Nakokondo se pamba di Christine, nasali moyembi. Christine mama, nazali moyembi, yebaka. Nama wanangai Christine, nazali kokanisa yo poyeba. Nakokondo se pamba di Christine, nazali moyembi. Nama wanangai Christine, nazali kokanisa yo poyeba. Nakokondo se pamba di Christine, nazali moyembi. Zonganoki, natikali awana makanisi, oh Christine, zonganoki. Oh, mungela Marie Christine, zongelanga, ete wayo akolela yo butu pe moyi, zonga mama. Eh, Christine, oh mon amour, zonganoki. Natikali awana makanisi, oh Christine, zonganoki. Oh, mungela Marie Christine, zongelanga. Ete wayo akolela yo butu pe moyi, zonga mama.